Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666 per gli sms, non abbiamo i messaggi su WhatsApp oggi. Siamo in diretta dai nostri studi di Roma, in regia c'è Valerio Rocchetti, Valeria Bernardi in regia a Milano, Mauro Del Corno in assistenza e in redazione. Di che cosa parleremo oggi? Faremo un punto, è la giornata giusta, visto che è passato il decreto, faremo un punto sul decreto fiscale, anche noi il via libera dell'Aula del Senato al decreto fiscale collegato alla manovra. C'è stata la fiducia al provvedimento chiesta dal governo, che ha ottenuto 148 sì, 116 no e nessuno astenuto, e passa adesso alla Camera. Non è improbabile che si vada alla fiducia anche là. Faremo un punto su tutte le novità che introduce questo decreto fiscale, cercando di tirare le fila di questo provvedimento, che è importante tanto quanto la manovra stessa sostanzialmente, perché all'interno ci sono tutti gli elementi che conosciamo, alcuni più popolari, alcuni meno popolari: l'equo compenso per i professionisti, lo stop alla fattura a 28 giorni, un mini scudo fiscale per gli ex residenti all'estero, i ritocchi allo spesometro e ultima la stretta sulle sigarette elettroniche, che sta facendo imbestialire tutto il popolo di coloro che le sigarette elettroniche le utilizzano, nei confronti di Simona Vicari, che poi è la persona che ha dato il via a questo emendamento che fa passare di fatto i liquidi per la sigaretta elettronica sotto il dominio del monopolio. Questi altri elementi ovviamente in questo decreto fiscale, che dovrà andare alla Camera ed è presumibile a questo punto, visti i tempi anche piuttosto stretti, che insomma non ci sia un nuovo passaggio, si vada alla fiducia anche là, anche alla Camera dei Deputati. Ci occuperemo di banche, c'è la vicenda di Carige, come vi abbiamo raccontato già da stamattina, una notizia che è arrivata non proprio come un fulmine a ciel sereno, ma quasi. È successo che è saltata la costituzione del consorzio di garanzia per l'aumento di capitale di Carige, un aumento di capitale da 560 milioni di euro, titolo poi sospeso in attesa di comunicazioni conseguenti al consiglio di amministrazione. Giusto per darvi l'idea, all'inizio del 2013 Carige valeva circa 11 euro per azione, adesso le quotazioni siamo intorno ai 14 centesimi di euro, una perdita superiore al 95%, parliamo questi sono i dati per quanto riguarda Carige, uno dei tanti elementi degli scandali bancari che lungamente abbiamo raccontato da questi microfoni. Nel frattempo emergono dei dettagli interessanti in un'inchiesta pubblicata oggi dal Sole 24 Ore a firma di Nicola Borzi, che sarà nostro ospite. Emerge un grande flusso di operazioni bancarie tra la Banca Popolare di Vicenza e i servizi segreti italiani, un flusso registrato tra il giugno 2009 e il gennaio 2013. Dalle carte risultano 1600 transazioni per un valore di oltre 642 milioni. Tra i soggetti figurano enti come appunto l'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, l'AISI, e l'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna. Di questo parleremo con Nicola Borzi, Popolare Vicenza, insomma, un'altra di quelle storie che abbiamo raccontato molte volte. Andremo a parlare di mercato dell'arte, perché insomma abbiamo avete sentito fin da questa mattina la quotazione enorme che ha raggiunto Salvator Mundi, questo quadro di Leonardo battuto all'Asta Christie's per 450 milioni di dollari. 450 milioni di dollari, fatemelo ripetere, polverizzando il record precedente, che era per un altro, per un'opera di un artista che era andata per 300 milioni di dollari. E appunto sono segnali di un mercato ovviamente molto particolare, in questi casi molto rarefatto, ma sul quale ci interessa accendere i riflettori. Vedremo se avremo spazio, tempo e soprattutto possibilità per commentare o quantomeno analizzare questa notizia che è appena arrivata e della quale la nostra Annalita D'Ambrosio vi ha dato informazione all'interno di GR24, che è una notizia che riguarda uno dei casi simbolo del mondo del lavoro, soprattutto del nuovo mondo del lavoro di questo paese, che è Alma Viva Contact, perché la notizia, se non avete sentito il GR24 ve lo dico io, è che il giudice del lavoro di Roma ha dichiarato illegittimi i licenziamenti di Alma Viva, almeno quelli di alcuni dei lavoratori che hanno fatto ricorso, e ha ordinato di fatto la reintegra di 153 lavoratori che avevano fatto ricorso, mentre per il 15 dicembre è attesa un'altra decisione che riguarda una novantina di persone. E proprio perché Alma Viva è ed è stata un caso simbolo per tutta una serie di motivi, vedremo se riusciremo ad approfondirlo nella giornata di oggi. Ripetiamo, poi a volte le notizie arrivano a tale stretto giro che è anche difficile trovare chi ci possa dare la chiave di lettura giusta. Vedremo se ci riusciremo. Intanto le notizie in breve di oggi. Sì, non vi preoccupate, non mi sono dimenticato dei mercati. La giornata è marginalmente positiva a Milano, FTSE MIB più 0,06%, FTSE All Share più 0,17%, Parigi che guadagna lo 0,68%, Francoforte mezzo punto percentuale. L'America è positiva, Dow Jones più 0,8%, Standard & Poor's 500 più 0,75%. Per quanto riguarda i singoli titoli, ma poi come sempre ai mercati ci arriveremo dopo, Buzzi Unicem bene più 3,13, Prismian più 2,61, Ferragamo più 2,20, Mediaset più 2,02, in fondo al listino BPR Banca meno 3,19, BPM meno 3,08, ma Leonardo meno 2,94%, Bibanca meno 2,46, Snam meno 1,12%. Ma come dicevo, ai mercati ci arriveremo tra poco. Intanto c'è quello delle materie prime di mercato, l'oro in rialzo dello 0,1% a 1279 dollari l'oncia, il petrolio in ribasso, il Brent in calo dello 0,11% a 61,8 dollari al barile. Per quanto riguarda il WTI, siamo appena sotto la parità, o meno 0,07% a 55,29 dollari al barile. Ci sono dei dati interessanti di ieri arrivati da Credit Suisse che ci segnalano che aumenta il numero dei milionari nel mondo. Nel 2017 sono più di 36 milioni, di cui 15 milioni solo negli Stati Uniti. Rispetto al 2016 il numero dei ricchi è salito di 2,3 milioni di unità, con un aumento della ricchezza complessiva del 6,4% a 280 mila miliardi di dollari. Succede però che 3 miliardi e mezzo di persone al mondo hanno asset per meno di 10 mila dollari. Questo vuol dire che il 10% degli adulti ricchi ha quasi il 90% della ricchezza e l'1% al top ha la metà degli asset globali. Di Salvator Mundi di Leonardo da Vinci, vi abbiamo detto a proposito di super ricchi, perché di certo non è una persona poco danarosa quella che si è l'anonimo, perché è passato tramite un dipendente di Christie's che ha battuto all'asta per lui, non è certo poco danaroso, 450 milioni di dollari per avere in casa o farci chissà cosa con la tela di Leonardo. Ed è più o meno la stessa cifra, quella messa sul piatto per Salvator Mundi, che sarebbero disposti a mettere in campo i miliardari fratelli Charles e David Koch, noti per il loro orientamento conservatore, per comprare il gruppo editoriale Time, che edita, oltre al famoso magazine, anche People, Fortune e Sports Illustrated. Secondo il New York Times, appunto, avrebbero portato avanti un'offerta per 500 milioni di dollari. Siemens taglia 7.000 posti nel mondo e chiude due fabbriche in Germania. Il colosso tedesco, che nei giorni scorsi aveva annunciato tagli dolorosi, ha ufficializzato oggi la decisione. A Monaco verranno chiusi gli stabilimenti di Görlitz e Lipsia, dove lavorano 920 dipendenti complessivamente. Questioni italiane. Siamo in grande attesa, e ben lo sapete, per la giornata di lunedì, quella nella quale si deciderà la sede dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco. È una partita molto importante, non solamente per Milano, ma per tutta l'Italia, ovviamente. Perché noi tendiamo a volte, e fatemelo dire qua, a ritenere che l'arrivo di un'agenzia europea di queste dimensioni rappresenti solamente i dipendenti dell'agenzia e poco più, rappresenta molto di più naturalmente. Rappresenta un mercato immobiliare che si allarga, rappresenta tutto quello che contorna un'agenzia di questo genere. Pensate solo al mondo dei leciti lobbisti che ruotano intorno all'agenzia del farmaco, che a quel punto si devono trasferire su Milano o comunque ruotare molto su Milano. E non solo quelli, naturalmente. Le questioni italiane ci portano anche alle parole del premier Gentiloni, che dice: la stabilità e la crescita del nostro paese non dipendono da questa o quella situazione politica, ma sono basate sulla capacità e sul lavoro. Sentiamo un passaggio dell'intervento del presidente del Consiglio all'inaugurazione dell'ampliamento del polo industriale della ICR di Lodi. La stabilità del nostro paese, della sua crescita economica, va al di là dei cambiamenti di questa o quella situazione politica. È una stabilità di fondo che dipende dalla forza, dalla capacità del lavoro e del territorio italiano. E a proposito della situazione italiana, abbiamo colto una certa irritazione oggi da parte del ministro dell'economia Piercarlo Padoan, il quale dice: la finanza pubblica sta migliorando e questo è un fatto, la confusione tra fatti e illazioni sta diventando insopportabile. Rispetto a quanto è solitamente compassato il ministro dell'economia, è una dichiarazione piuttosto forte. Si definisce un ministro dell'economia stranamente ottimista, invita a non compiacersi dei risultati raggiunti, la legislatura si sta chiudendo con un quadro economico migliore, questo è un fatto, dice Padoan. Si sta chiudendo una legislatura, è una legislatura che riceve da quella precedente, che offre a quella che seguirà un quadro oggettivamente migliore in termini di crescita, in termini di finanza pubblica. Questo è un fatto, noi non vogliamo nascondere niente a nessuno, neanche se ci parla da un altro paese, questo deve essere molto chiaro. Oh. Per il presidente di Confindustria Boccia, l'Europa più che al governo ha inviato un messaggio ai partiti politici per la prossima campagna elettorale: attenzione a non fare politiche che aumentano il deficit per aumentare il debito. Due aspetti complementari: uno, quello del governo, che dice che siamo in una direzione di marcia in cui il PIL cresce oltre le aspettative, l'export cresce, e hanno ragione. L'altro, l'alert dell'Europa, che ci ricorda che l'economia, nonostante l'inversione di tendenza, è ancora fragile e abbiamo un debito pubblico rilevante. Mi sembra più che un messaggio al governo, un messaggio ai partiti per la prossima campagna elettorale. Attenzione a non fare politiche che aumentano il deficit per aumentare il debito, questo è l'alert dell'Europa. Continuare a investire sulla crescita ed evitare politiche di gruppi di interesse o di categorie che non hanno, come dire, alcuna sostenibilità col debito pubblico del Paese. Il messaggio che noi leggiamo è in questi termini, quindi continuare a investire sulla crescita, cosa positiva, inversione di tendenza, allerta e attenzione, abbiamo un grande debito pubblico e quindi questa è l'operazione verità che l'Europa ci chiede di fare. Da dire, e intanto vi aggiorno sulle vicende di Banca Carige, poi ci andremo più avanti. Maracalcio Investimenti, il primo azionista, ha presentato alle autorità la richiesta di essere autorizzato a salire al 28% dell'istituto ligure, istanza presentata il 26 ottobre. È arrivata una nota appunto di Maracalcio. Intende confermare ancora la propria attitudine di sostegno nell'interesse della banca, di territorio e dell'azionariato tutto. Disponibilità che però non può tradursi in un'impropria supplenza della funzione del consorzio di garanzia. Consorzio di garanzia, appunto, che oggi si è tirato indietro. Arriveremo a Carige. Intanto però andiamo al decreto fiscale. Decreto fiscale. L'Aula del Senato ha dato il via libera al decreto fiscale collegato alla manovra. La fiducia chiesta sul provvedimento ha ottenuto 148 sì, 116 no, nessuno astenuto. Passa alla Camera. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Buonasera a voi. È prevedibile che poi alla Camera succeda sostanzialmente la stessa cosa, si blindi con la fiducia, no? Sì, è prevedibile, già previsto, nel senso che quindi il testo votato oggi dal Senato, in una sorta di monocameralismo di fatto, perché poi sì, c'è anche da trattare la manovra e tutto il resto, sia quello poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo la ratifica della Camera. Un decreto fiscale, come sempre in questi casi, composito, tiene dentro tantissime cose, forse addirittura più cose della manovra stessa, ci sono all'interno tra quattro mesi lo stop alla fattura a 28 giorni, ne abbiamo parlato fino alla noia di questo argomento, noi tra l'altro sul Sole 24 Ore siamo stati tra i primi ad anticipare, no, che sarebbe arrivata questa cosa, e ci sono tutta una serie di altri elementi, a partire per esempio dall'equo compenso per i professionisti, che deve essere garantito anche dalla pubblica amministrazione. Anche questo, così come lo stop alla fattura a 28 giorni, sono attirati un po' di critiche, no? Sì, si sono attirati un po' di critiche e un po' di dibattito all'interno di un decreto, lo dicevi tu, che è composito come al solito, ma più del solito, perché siamo ai saldi di fine legislatura, è l'ultimo treno utile insieme alla manovra. La lettura è appassionante per chi pratica la burocrazia italiana, perché c'è veramente di tutto e di più. In un gruppone di norme coriandolo che sistemano piccole, piccolissime o grandi partite. Andiamo sulle cose invece più grosse. L'equo compenso è arrivato dopo una certa difficoltà, vale per tutti e vale anche, almeno come norma di principio a cui la pubblica amministrazione dovrà adeguarsi, anche appunto per i lavori della PA. Questo nasce dal fatto che poche settimane fa era stato, considerato legittimo dalla giurisprudenza amministrativa un incarico affidato a un professionista per la magnifica cifra di 0 euro. E questa cosa aveva sollevato ovviamente un dibattito, perché cancella, diciamo, alcuni principi fondamentali del valore del lavoro e dell'attività professionale. Va bene i risparmi di finanza pubblica, ma insomma arrivare a pagare zero sembrava un po' tanto. Sì. Quindi questa norma, che era nata solo per tutelare i professionisti, prima solo gli avvocati, poi si è estesa anche ai commercialisti e agli altri professionisti nei confronti dei committenti più forti, le banche, le assicurazioni, sì, e così via, è stata estesa alla PA. Nella PA vale come norma di principio per il futuro, quindi eventuali contratti in corso che prevedano cifre simboliche, e sono tanti, sono validi, ahimè, anche quelli che prevedono appunto compensi zero più qualche piccolo rimborso spese, eccetera, sono figli di una stagione in cui si è passati dall'esigenza vera della spending review alla retorica della spending review, retorica che ti porta a affidare incarichi a costo zero. Comunque questo è un grande vantaggio per i professionisti. L'altra cosa che ha suscitato critica è quella della rottamazione delle cartelle, in particolare, perché si riapre per tutti sostanzialmente, una sanatoria è per sempre, dicevano commentatori più autorevoli. Nel decreto varato dal governo c'era una mini riapertura per le cartelle che non erano state rottamate nella prima chance, perché la domanda era stata respinta. Poi naturalmente si arriva in Parlamento, si allargano le maglie, si rirottamano le multe anche e i tributi locali in tutti i comuni che vorranno aderire, anche in quelli che non hanno aderito alla prima rottamazione. Quindi per pagare, per morire c'è sempre tempo, per rottamare invece il tempo arriva subito. I famosi saldi di fine legislatura nei quali si inserisce, lo citavi tu, no? Ci sono normative coriandolo. Per dare un'idea ai nostri ascoltatori, entra in un provvedimento che si chiama decreto fiscale, che è collegato alla manovra, la norma che ti consente di fare una liberatoria se non vuoi che i tuoi figli, se non vuoi andare a prendere i tuoi figli a scuola alle medie, ed entra in una norma che si chiama decreto fiscale ed è collegato alla manovra, cioè la famosa polemica che ormai conoscete tutti e che ha angustiato noi genitori di figli che vanno alle medie, ossia il dovere di andarli a prendere e portarli a scuola. Ebbene, entra nel decreto fiscale, appunto, saldi di fine legislatura, Gianni. Sì, in un paese che ha ormai perso il controllo di una sua caratteristica tipica, che è quella di voler normare tutto. C'è anche un fortunato hashtag su Twitter che fa vedere gli avvisi, diciamo, appesi nei vari uffici pubblici, eccetera, che ti dicono in linguaggio strettamente burocratico, ti danno delle istruzioni normative su cose assolutamente ovvie e assolutamente gestibili anche senza una normativa, ma noi ci sentiamo tranquilli solo quando un argomento è affrontato dalla Gazzetta Ufficiale. Dalla Gazzetta Ufficiale, strettamente. E c'è anche una norma sulle sigarette elettroniche, qualche ascoltatore ci scrive su questo, faccio dichiarazione di conflitto di interessi, io sono un fumatore di sigarette elettroniche, quindi come dire, mi interessa particolarmente, ma in realtà interessa molti, perché di fatto passa sotto il monopolio dello Stato la vendita dei liquidi per sigaretta elettronica, se ho capito bene. E la cosa si innesta anche con una decisione, si intreccia con una decisione della Corte Costituzionale proprio dell'altro ieri. Vi ricordate che i negozi di sigarette elettroniche erano spuntati come funghi nelle nostre città quando piove, e poi erano in larga parte spariti, sempre come i funghi, quando c'era siccità, ma non perché era passata la moda, ma perché lo Stato si era accorto di questo business e aveva applicato da un giorno con l'altro, si era passati da zero tasse a tasse al 58 circa per cento, che è quelle applicate sulle sigarette, sono quelle applicate sulle sigarette tradizionali. Le aziende del settore si erano rivolte alla Corte Costituzionale per dire che questo passaggio da 0 a 100 come la Porsche era un po' troppo, un po' incostituzionale. Invece la Corte Costituzionale ha respinto le obiezioni, ed è interessante la motivazione. Sostanzialmente, naturalmente la traduco dal giuridichese al quotidiano, sostanzialmente si dice: se tu consumatore hai i soldi per comprare e utilizzare un bene voluttuario come sono le sigarette elettroniche, hai i soldi anche per pagarci sopra le tasse. Il problema in verità non era quello, il problema è che appunto Con questo passaggio poi al monopolio si completa un processo che ha visto aggredire fiscalmente questo prodotto innovativo. Come tutti i prodotti innovativi, all'inizio esce, diciamo così, sì, dal raggio d'azione del nostro fisco, che però è attentissimo e ha applicato lo stesso carico di tasse e di accise che invece sulle sigarette normali si è stratificato nel corso dei decenni. Sulle sigarette elettroniche invece, che sono più moderne, ci ha messo un giorno solo. È arrivato tutto di botto e si inserisce appunto questo emendamento della Vicari, di Simona, firma di Simona Vicari, appunto, che intende mettere più sotto controllo, passare sotto il monopolio, ridurre la possibilità di acquisto online, in particolare dei liquidi che riguardano la sigaretta elettronica. Non penso si riferisca all'hardware, francamente, ma poi ci faremo dare ulteriori spiegazioni magari dalla stessa Vicari. Io intanto ti ringrazio, grazie a Gianni Trovati del Sole 24 Ore per questo aggiornamento. Ovviamente tutti gli approfondimenti li avrete trovati e ritroverete sul Sole 24 Ore e sul sito del Sole 24 Ore. Noi adesso ci fermiamo, il meteo ci ritroviamo subito dopo. Ci sono i mercati, l'aggiornamento sui mercati, poi l'asta dei record di Leonardo da Vinci e poi le banche e, se riusciremo, appunto, Almaviva. A tra poco. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, sempre 349-238-6666 per i vostri sms. Tra un po' arriveremo a fare il punto sull'andamento dei mercati in una giornata che si chiude positivamente, più 0,22% il FTSE MIB, più 0,24% il FTSE All Share, ma come dicevo tra poco ci arriveremo. Prima però, prima quando abbiamo fatto il punto, le notizie in breve, per chi non era in ascolto, abbiamo ricordato che oggi è andata, o meglio, ieri è andata in asta da Christie's su un'opera che è stata venduta, è Salvator Mundi di Leonardo da Vinci, o attribuita a Leonardo da Vinci, per una cifra che è simile a quella che due miliardari, Charles e David Koch, noti per il loro orientamento conservatore, stanno mettendo in campo per l'intero gruppo editoriale Time, proprietario del magazine Time, People, Fortune, Sports Illustrated. Ovviamente non c'è paragone, il paragone è simile solamente nella cifra, ma per darvi la misura. Ovviamente sono due notizie che sono arrivate in giornata e quindi l'associazione ci sembrava corretta. Un record incredibile, appunto, 450 milioni di dollari. Marilena Pirrelli del Sole 24 Ore. Marilena, ciao, buonasera. Buonasera a voi. Allora, innanzitutto iniziamo a dire che non siamo per nulla sicuri che sia un Leonardo. Beh, diciamo che solitamente la parola va al mercato in questi casi, e il mercato ha detto sì, e quindi il mercato ha fatto volare a 400 milioni di dollari quest'opera, questa tavola di noce, e quindi dobbiamo credere che il mercato abbia ragione, anche se il marketing di Christie's è stato molto efficace, soprattutto nei paesi asiatici. Il CEO di Christie's non ha rivelato chi è il compratore, ha detto forse lo rivelerà lui, ma ci immaginiamo che possa essere appunto da quel lato dell'oceano, ma potremmo essere anche smentiti, lo sapremo probabilmente nelle prossime ore. Allora, il marketing, dici, ha funzionato, perché c'è anche questo, c'è anche un elemento di marketing, in questo caso fatto da Christie's, come dicevamo, su un'opera nella quale lo scrivevi proprio tu, la prevalenza degli esperti, cioè gran parte degli esperti dicono che è un Leonardo, altri ritengono invece che per esempio sia di un allievo, no? Sì, o un Boltraffio, addirittura un Bernardo Luini si era ipotizzato nei vari passaggi che appunto hanno ricostruito fin dal 1900 nelle varie collezioni inglesi. Pugliesi, era prima stato assegnato a Luini, poi successivamente a Boltraffio. C'è una copia, un disegno nella collezione reale che appunto in Inghilterra riprende questa immagine, e quindi, come dire, ci sono dei seri fondamenti a che quest'opera esistesse da qualche parte. Va detto che quest'opera è passata a 45 sterline nel 58 da Sotheby's, e poi nel 2005 a $10,000, lì acquistata da un pool di dealer americani, è stata ripulita, e da lì, credo, appunto dal 2005 in poi è partita l'operazione, tant'è che nel 2011 è stata proposta alla National Gallery di Londra come opera attribuita a Leonardo da Vinci, e da lì in poi, nel momento in cui il museo ha dato l'ok, capite bene che il processo di accreditamento diventa più facile. Sì, io non so se esista un bene che compri per $10,000 12 anni prima e 12 anni dopo vale 450 milioni. Sinceramente non credo che esista. Questo però dà anche la misura di un mercato molto strano, Marilena, no? del quale tu ti occupi, molto particolare, e che in questo momento tocca un nuovo massimo, arriva, no, polverizza ogni record questa cifra. Sì, questo quadro polverizza il record, però in trattativa privata, di un Gauguin, appunto Quando ti sposi, era l'opera di questa bellissima opera colorata passata di mano nel 2015 e probabilmente finita nel Museo del Qatar. Successivamente c'era stata un'altra opera sempre venduta in Medio Oriente, era un Cézanne, e poi abbiamo appunto il Picasso, le donne di Algeri, battute in asta, quindi in chiaro potremmo dire noi, nel 2015 per $179,3 milioni, e questo è il mercato. Sì, è un mercato che nel momento nel quale c'è un passaggio di queste dimensioni, no? Appunto, ripeto, da $450 milioni, è un mercato che può cambiare ulteriormente. Cioè, noi siamo abituati in questi anni, Marilena, ad aver visto, no? Battere sempre nuovi record per le opere d'arte. È un mercato che va a crescere da questo punto di vista oppure no? No, il mercato non è esponenziale, assolutamente no. Il mercato non accoglie tutto e tutti, il mercato è selettivo, per questo dico che se il mercato ha detto sì, quest'opera da oggi in poi probabilmente è un'autentica di Leonardo, proprio perché il mercato in realtà fa la differenza, e in questi ultimi anni di crisi abbiamo visto proprio un mercato che giocava le sue carte sulla selezione e la qualità delle opere. Quindi si potrebbe dire che il lavoro fatto da questi dealer di ripulitura, di analisi e di studio possa aver portato veramente a una riscoperta. Questo è quanto ci poi immaginiamo che quest'opera verrà ancora studiata probabilmente, però il mercato lascia indietro anche tante opere. Sempre ieri ha lasciato indietro un Basquiat che fino a qualche mese fa era stata la star delle aste. Quindi il mercato è selettivo, non compra di tutto. Io ti ringrazio, grazie a Marilena Pirrelli e al suo 24 ore per averci aiutato a raccontare un po' questa vicenda, che come avete sentito è anche una vicenda economica, e all'ascoltatore Stefano che ci scrive da Udine, che già mi ha scritto oggi durante Effetto Giorno: no, non credo che, per quanto le parcelle siano alte, che il dipinto l'abbia comprato il suo dentista, però la battuta non è male. Grazie Marilena Pirrelli e al Sole 24 ore, traffico e poi parliamo della Popolare di Vicenza. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, sempre 349-238-6666, lo ricordo per gli ascoltatori che si fossero messi in ascolto solamente adesso, che oggi vale solo per gli sms, i buoni vecchi sms, non abbiamo sotto mano WhatsApp, quindi se avete da dire la vostra, da scrivere qualcosa, scrivetelo via sms. Torniamo ad una vecchia conoscenza, la Banca Popolare di Vicenza. Da un'inchiesta del Sole 24 Ore emerge un grande flusso di operazioni bancarie tra la Popolare Vicenza e i servizi segreti italiani. Ne scrive oggi Nicola Borzi del Sole 24 Ore. Nicola, ciao, buonasera. Buonasera Simone, buonasera agli ascoltatori. Allora, Popolare Vicenza, undicesimo gruppo bancario italiano, finito a gambe all'aria la scorsa estate, rilevato nella sua parte sana da Intesa San Paolo, inizia ad emergere qualche documento che su questo fronte è interessante. 1600 transazioni, Nicola, hai ricostruito, no? Sì, diciamo che più che ricostruito le ho lette. Ho letto 1597 operazioni bancarie transitate tra il 2009 e gli inizi del 2013, cioè dal quarto governo Berlusconi alla fase, diciamo, conclusiva dell'esperienza governativa Monti, che sono passate attraverso delle filiali del gruppo Banca Popolare di Vicenza, che in questo caso era semplicemente il tramite attraverso il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'AISI, cioè l'Agenzia per la Sicurezza Interna, e l'AISE, il gemello per la sicurezza esterna, operavano e trasmettevano fondi a varie realtà. Tra queste realtà, aziende, privati, funzionari dei servizi, privati cittadini, una sequenza molto interessante di nomi sui quali ho cercato di operare con gli strumenti normalmente a disposizione di un giornalista, cioè con le fonti aperte, come si chiamano, tutti i controlli possibili, e che devo dire risulta consistente con la validità del materiale. E quindi c'è una corrispondenza, per così dire. Ascolta Nicola, da dove provengono questi documenti, per quanto possiamo dire ovviamente? Per quanto possiamo dire, questi documenti provengono da una sede di Padova che è quella di SEC Servizi, cioè del CED informatico della Popolare di Vicenza, e non solo della Popolare di Vicenza, perché la Popolare di Vicenza in SEC Servizi aveva quasi il 50% delle azioni, ma un altro gruppo bancario gemello, per traiettoria, per vicende e anche per ricadute giuridiche e giudiziarie, deteneva quasi il 30% ed era Veneto Banca. SEC Servizi, appunto, consorzio fra istituti bancari che era sorto nel 72 per fornire servizi di operatività bancaria e tecnologica. E altro snodo interessante che riguarda SEC è che in realtà è un'infrastruttura non così sicura. Ma diciamo che questo affermano le fonti che abbiamo consultato, e questo in qualche modo afferma anche il fatto che da SEC Servizi siano usciti dei documenti, e non dei documenti banali, perché per arrivare a questo elenco sono state passate al setaccio evidentemente decine, forse centinaia di milioni di posizioni che sono state identificate attraverso una sequenza di codici, e questa sequenza di codici può essere a conoscenza soltanto di un gruppo ristretto di persone. SEC Servizi, per chiarire, è un grande operatore nel settore dell'informatica bancaria che ogni giorno riceve qualche cosa come 55 milioni di operazioni bancarie, le registra, le stocca e le mette in correlazione. Il periodo di tempo che abbiamo analizzato noi, ripeto, è un periodo di tempo di circa 42 mesi, una quarantina di mesi. Provate a immaginare durante una quarantina di mesi quanto è il volume delle operazioni che sono transitate dal CED. Quindi per identificare queste 1597 operazioni deve essere stato fatto evidentemente un livello di sorting o di query, come si dice in genere, molto approfondito. Ma aggiungo un dato, le stesse fonti ci dicono che i rapporti bancari della Presidenza del Consiglio e delle agenzie, comprese le loro antesignane, quindi il SISMI e il SISDE, potrebbero risalire nel gruppo Popolare di Vicenza agli inizi degli anni 2000 e forse anche prima. Quindi quello che abbiamo visionato è stato un estratto conto parziale di una quantità di materiale molto più grande che si trova in questo punto nevralgico dell'operatività bancaria a Padova. Evidentemente lì dentro c'è molto più materiale. Quello che mi sento di dire, avendo visto questo materiale e, ripeto, avendo analizzato le fonti aperte, è che attraverso questa rete partono tutta una serie di collegamenti a una serie di vicende recenti dell'economia, della finanza, della politica, della storia giudiziaria del paese, che potrebbero essere molto interessanti per chiarire molte storie anche recenti. Ascolta Nicola, l'ultima domanda che ti voglio fare riguarda proprio il, per così dire, ruolo di Popolare di Vicenza. Da quel che sei riuscito a capire, È possibile che questo tipo di rapporti bancari, questo transito di denaro che coinvolgeva anche i servizi segreti italiani, possa essere passato da altre banche? Cioè, Vicenza è un'anomalia, nel senso che era la banca favorita, per così dire, per certe transazioni dai servizi, o è ipotizzabile che questa operatività fosse normale? Nel senso che, parliamoci chiaro, non è che c'è niente di terribile nel fatto che un organo dello Stato utilizzi un servizio assolutamente bancario. No, è un'operazione totalmente legittima. È diverso quello che emerge in qualche modo dalle carte, però. E qui entro nel merito di questa domanda. Allora, Vicenza sicuramente non era l'unica banca su cui operavano le transazioni bancarie della Presidenza del Consiglio e delle agenzie di informazione e sicurezza. Un nome che emerge dalle carte è quello della Banca Nazionale del Lavoro. Ci sono dei giroconti tra i conti della Presidenza del Consiglio e delle agenzie sulla Vicenza e sulla Banca Nazionale del Lavoro. Questa è una prima questione. La seconda questione però è anche di altro tipo. Queste informazioni a chi erano destinate e chi ne aveva la disponibilità? Erano rimaste segnatamente nel CED a giacere per anni totalmente invisibili a tutti, o qualcuno le aveva analizzate per tempo? E aggiungo, se qualcuno le ha analizzate per tempo, ha utilizzato queste informazioni in maniera corretta, in maniera propria o in maniera impropria per aumentare il proprio potere nei confronti degli organismi, ad esempio, di vigilanza o della Presidenza del Consiglio? Aggiungo un altro dettaglio che dagli articoli di oggi dovrebbe apparire abbastanza evidente. Ci sono delle strane coincidenze geografiche di indirizzi di palazzi romani tra alcune sedi di Banca Nuova del Gruppo Popolare di Vicenza e vecchie sedi emerse nella storia dei servizi. Ad esempio, il civico 230 di Via Nazionale doveva sede l'ufficio di Pio Pompa. Ti ringrazio, grazie a Nicola Borzi, e su questa sequenza di domande chiudiamo questa prima parte di Focus Economia. Ci ritroviamo subito dopo, parleremo di mercati e parleremo di un'altra banca, di Carige, per questioni più strettamente finanziarie. A tra poco. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Di nuovo buonasera cari ascoltatrici e cari ascoltatori, e benvenuti alla seconda parte di Focus Economia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms. Oggi siamo in indisponibilità di WhatsApp, quindi scriveteci là se volete, guardateci se volete, commentate anche sulla pagina Facebook di Radio 24, dalla quale andiamo in diretta oggi dai nostri studi di Roma. E siamo al momento dei mercati per fare un punto di giornata, come sempre il nostro consueto punto di giornata, con Milano che chiude positiva, più 0,22% il FTSE MIB, più 0,31% il FTSE All-Share. Meglio Francoforte, guadagna mezzo punto percentuale, Parigi lo 0,66, bene l'America, più 0,82% sul Dow Jones, più 0,82% sullo Standard & Poor's 500. Eleonora Micheli, Radio Core, il Sole 24 Ore, buonasera, ciao Eleonora. Buonasera. Allora, dacci innanzitutto il quadro generale di giornata, vai. Sì, il quadro generale: oggi le borse europee hanno tentato evidentemente il rimbalzo, sono andate tutte bene, la peggiore Londra solo più 0,19%, ma anche Milano è rimasta un po' più indietro rispetto agli altri indici, visto che in questo caso è stata zavorrata soprattutto dai titoli delle banche. Il motivo è ovviamente addestato preoccupazione il fatto che Banca Carige abbia annunciato che non ci sono le condizioni perché il consorzio di garanzia garantisca appunto l'aumento di capitale da 560 milioni che sarebbe dovuto partire nei prossimi giorni, la prossima settimana, alcuni sostenevano già lunedì. E poi ovviamente desta ancora preoccupazione la delicata situazione del Creval, che ricordiamo la scorsa settimana ha annunciato questa operazione monster, considerando quelle che sono le dimensioni della banca, un aumento di capitale da ben 700 milioni, e secondo le ultime indiscrezioni starebbe anche cercando un cavaliere bianco, ossia un altro istituto di credito che appunto con il quale che garantisca l'operazione non solo ma anche le condizioni della banca. Questo ovviamente ha penalizzato tutto il comparto, ecco perché sì. È andato peggio l'indice, Biper ha perso il 2,7, Banco BPM il 2,8 e UBI, che sono state le peggiori, il 2,5%. Il 2,5%, sì, è piuttosto Unicredit, pesante. Meno sì. 0,2 Intesa invece è rimasta invariata. Sì, più 0,07%, ma appunto, come dicevi tu, una variazione marginale. Bene, Fiat Chrysler e Ferrari. Eh sì, in questo caso, infatti, diciamo che dopo la battuta d'arresto delle matricolazioni in Europa registrata nel mese di settembre, praticamente ottobre ha registrato una ripresa delle vendite di auto e quindi questo ha dato il là un po' a tutto il settore auto europeo. Per la verità FCA ha fatto peggio del mercato europeo, visto che quest'ultimo ottobre ha registrato un incremento rispetto all'anno scorso del 5,9%, invece FCA ha visto salire le proprie vendite solamente dell'1,1%. Comunque va detto che da inizio anno le immatricolazioni della casa auto aumentano del 7,3%, mentre quelle del mercato sono salite meno, esattamente del 3,8%. Comunque questo ha dato un po' il là per ricomprare le azioni di Fiat, ma anche di Ferrari. Tra l'altro della Galassia Agnelli è andata bene anche CNH, più 0,66%, mentre ha battuto la Fiat Hector, che ha limato dello 0,10%. Ti porterei a questo punto, va bene, abbiamo Ferragamo che almeno in giornata era rimbalzata, no? come ha chiuso, con un più 2,20%, un rimbalzo, ieri era andata male per i conti e lo abbiamo raccontato, scivola di nuovo Leonardo invece. Sì, in questo caso infatti Leonardo continua a esserci grande nervosismo dopo che la società ha pubblicato conti che sono stati giudicati deludenti la scorsa settimana, ma soprattutto ha lanciato un vero e proprio profit warning sui conti futuri. Aveva tentato il rimbalzo ieri, ma di nuovo oggi sono arrivate le vendite e ha fatto meno 3,5%. Per quanto riguarda Ferragamo, ieri era andata male, aveva perso circa il 5% del valore sulla notizia e sulla trimestrale considerata deludente. D'altra parte è un'azienda che in 9 mesi ha fatturato circa 1 miliardo di euro e comunque le prospettive per l'intero settore del lusso sono di crescita, sono positive. Bain mette in conto ad esempio che il comparto del lusso crescerà complessivamente quest'anno del 5% e quindi qualcuno è tornato ad acquistare le azioni, che comunque si attestano su livelli minimi da inizio anno. Sì, bene, anche Luxottica guadagna lo 0,27%, tra i titoli positivi Buzzi Unicem più 3,18%, Prismian più 3,01%, bene Mediaset più 2,16%, ST Microelectronics che guadagna quasi 2 punti percentuali, così come Fineco Bank, bene Brembo più 1,9%, Azimut più 1,3%, Recordati più 1,2%, Telecom Italia in recupero più 1,17%, in fondo all'isino l'abbiamo detto Leonardo, un po' di bancari come BPM, BPR Banca, UBI Banca, male anche Tenaris che cede l'1,08% ed Eni l'1,01%, così come Snam lo 0,98% e Unipol che cede lo 0,6%. Grazie dunque ad Eleonora Micheli di Radio Cori, Il Sole 24 Ore, e veniamo alla vicenda che in questo momento ha avuto un impatto abbastanza forte un po' su tutto il comparto bancario, tra l'altro anche nella giornata dei mercati, la grande confusione sotto il cielo di Genova, ed è la vicenda Carige. Your touch is hard to breathe. Slow it down and count to three. Il mondo della finanza si è svegliato questa mattina con la notizia che è saltata la costituzione del consorzio di garanzia per l'aumento di capitale di Banca Carige, un aumento di capitale da 560 milioni di euro. Rendendo questa giornata, come si diceva, non lo dicevo a caso, estremamente confusa. Per cercare di tirare le fila di quello che è successo, siamo con Luca Davi del Sole 24 Ore. Ciao Luca, bentornato ai nostri microfoni, buonasera. Buonasera a tutti. Io ti faccio tirare le fila di questa vicenda, però dopo il traffico. Focus Economia. E dunque veniamo a Banca Carige. Voglio dire subito che comprendo Luigi che ci scrive, ci ha scritto 4-5 messaggi disperati dicendo che succederà a noi piccoli azionisti. Ho investito parecchio in questa maledetta Banca Carige, sto molto male. Luigi, noi la comprendiamo per quanto possibile, naturalmente, pur non avendo investito in Carige. Proveremo a dare qualche risposta, lo facciamo quotidianamente. Le consiglio tra l'altro di riascoltarsi la puntata di questa mattina di Due di Denari, ne hanno parlato i colleghi Deborah Rosciani e Mauro Meazza insieme a Marco Ferrando, con un taglio se vuole un po' più di servizio. Però i canali del Sole 24 Ore sono sempre aperti anche per dare a voi queste risposte, ovviamente, non solamente i nostri, quelli di Radio 24, ma quelli di tutto il gruppo editoriale su questi temi, come sapete. Vediamo però di ricostruire innanzitutto questa giornata, anche per cercare di mettere qualche punto. Dunque, Luca Davide, il Sole 24 Ore. Luca, iniziamo da stamattina. Stamattina dove arriva questa notizia, una mattina nella quale arriva la notizia che il consorzio di garanzia per l'aumento di capitale non si costituisce. E si riunisce il consiglio di amministrazione della banca sostanzialmente per decidere che cosa fare. Che cosa succede a questo punto? Succede che ovviamente il mercato inizia a interrogarsi sulla possibilità che Carige, la banca ligure che è alla ricerca di questi 560 milioni necessari per rimanere in piedi, davvero sarà in grado di rimanere appunto in piedi. Questo è un dubbio che in tanti si stanno ponendo in queste ore, che si sono posti ovviamente soprattutto alla luce del comunicato della banca, tanto che ovviamente si è deciso di mettere, di congelare il titolo e di aspettare che nelle ore successive qualcosa venisse un pochettino più chiarito. Per tutta la giornata appunto si sono rincorse diverse informazioni contraddittorie, soprattutto rispetto a che cosa? Alla possibilità che il maggior azionista della banca, e cioè l'imprenditore e la famiglia Malacalza, aderisse a questo aumento di capitale. C'era incertezza sul fatto che davvero volessero i componenti della famiglia anche poter eventualmente uscire e quindi abbandonare il progetto che fino ad oggi è sicuramente costato tanto, perché ricordiamolo che l'imprenditore piemontese fino ad oggi ha investito qualcosa come 260 milioni per acquistare il 17% di una banca che oggi ne vale meno della metà di questi 260 milioni, vale circa 120 milioni la capitalizzazione di oggi di Carige. Insomma, in questa grande incertezza di fondo, solamente in tarda serata Malacalza è uscito allo scoperto. E cosa ha detto? Ha detto sostanzialmente che è pronto non solo a mettere i soldi che servono e che sono di sua competenza, ma anche a salire oltre a quella che è la sua quota attuale, questo 17%, e a raggiungere un 29%, che è insomma una soglia limite importante, e questo dimostra insomma una volontà forte di investire in questa banca. E però Malacalza dice anche, si toglie evidentemente qualche sassolino dalle scarpe, perché accusa il consorzio di garanzia delle banche di non essere stato puntuale insomma nell'informarlo e dirgli che praticamente c'era bisogno di una sua partecipazione forte nell'adesione appunto all'aumento di capitale che era oramai in programma, e senza queste indicazioni insomma lui non sapeva evidentemente cosa fare, e quindi sostanzialmente accusava le banche di essersi tirate indietro. Non a caso dice: ok, io sono disposto a aumentare partecipare a questo aumento di capitale, salire sopra la quota eccetera eccetera, però questo non può tradursi in un'impropria supplenza della funzione del consorzio di garanzia, no? Testuali parole del comunicato. E questo è proprio il tema di fondo, perché si tratta di capire chi metterà i soldi che ovviamente servono per arrivare ai 560 milioni, perché Malacalza farà, a quanto pare, a quanto risulta dalle sue dichiarazioni, farà la sua parte, però ne mancano comunque una bella cifra per arrivare a questo livello. E qua ci si interroga, ovviamente ci sono sul mercato rumors relativi a una possibile partecipazione del gruppo Unipol, si parla eventualmente di altri grandi soggetti bancari. C'è un tema di fondo e bisogna fare presto. Perché? Perché la banca ha promesso alla BCE di arrivare e chiudere tutta l'operazione entro il 31 di dicembre. Qualora ci fossero un ritardo, come pare o essere ormai nei fatti, probabilmente bisognerà slittare, andare avanti oltre il 31 di dicembre, la BCE dovrà autorizzarlo, ma su tutto questo aleggia un rischio, che è quello della possibile risoluzione della banca. Sicuramente tutto questo si vuole evitare, a Genova come a Roma, evidentemente. Sì, naturalmente, posto che la situazione è già... devastante, sufficientemente grave. Esatto, ce lo scriveva ci scriveva l'azionista poco fa. Io non so a quanto le abbia in carico queste azioni di Banca Carige, però parliamoci chiaro, parliamo di una banca che all'inizio del 2013 aveva un valore di 11 euro per azione, cioè le azioni valevano 11 euro ciascuna, adesso siamo a ridosso del centesimo, e anzi era intorno al centesimo e si valutava di fare l'aumento di capitale, no? Ma l'abbiamo scritto proprio oggi, abbiamo provato a fare un po' di conti su quelli che sono le perdite vere, no, brucianti nelle tasche dei risparmiatori, degli investitori, tanti risparmiatori liguri in particolare, ma in realtà il titolo è abbastanza diffuso. Bene, abbiamo il calcolo è semplice, sono 4 miliardi la capitalizzazione bruciata in questi ultimi 5 anni di storia della banca. Tre aumenti di capitale sono stati fatti, uno da 800 milioni, uno da 850 e l'ultimo appunto da 560 milioni, che è ancora in divenire. Insomma, una perdita che ha fatto associare spesso il marchio Carige a quello di altre malandatissime banche italiane, a partire da quelle venete o MPS, e forse non a caso. Diciamo che il tentativo che ha sempre tentato di portare avanti la famiglia Malacalza è di portare in salvataggio, in sicurezza questa banca senza gli aiuti di Stato. Vedremo se ce la farà, ovviamente. Grazie a Luca Davi del Sole 24 Ore, che continueremo a leggere, così come continueremo a leggere i colleghi del Sole 24 Ore. Lo ribadisco ancora una volta all'ascoltatore che ci ha scritto, così come agli altri: i nostri canali, cioè quelli di Radio 24, in particolare di Due di Denari, che più spesso ha questo taglio, questa impostazione di trasmissione, ma così come i canali del Sole 24 Ore, sono sempre aperti alle vostre domande. Cerchiamo come sempre di darvi una risposta, magari non esattamente nella sede nella quale la chiedete, ma il nostro è un gruppo editoriale vasto, pieno di informazioni, e sfruttatele finché si può. Allora, prima di chiudere, da domani al 19 novembre si tiene Economia Come, il primo festival dell'economia a Roma, che si svolgerà all'Auditorium Parco della Musica, un evento promosso dalla Fondazione Musica per Roma, dalla Camera di Commercio Capitolina. Ci siamo noi tra i media partner, Radio 24, ci saranno parecchie importanti personalità del mondo politico ed economico e manageriale, il ministro Padoan, Calenda, Del Rio, Lorenzo Binismaghi, Salvatore Rossi, Daniel Gross, il numero uno di Intesa San Paolo, Carlo Messina. Ci sarà anche il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Quasi 30 gli appuntamenti in agenda, organizzati in diversi format. Sebastiano Barisone ha chiesto al presidente di Fondazione Musica per Roma, già presidente di Unindustria Roma e Confindustria Lazio, Aurelio Regina, quali saranno i temi principali al centro di questo festival. Sarà un festival dedicato a un tema centrale che ormai è diventato della nostra vita, l'economia, e un po' tutti i grandi temi connessi, l'innovazione, la globalizzazione, le politiche del lavoro, con una vocazione e anche un po' un auspicio che è un po' nel sottotitolo stesso della manifestazione, cioè l'impresa di crescere, questa difficoltà comunque che attanaglia il paese, che solo recentemente quindi ci ha visto in una prospettiva migliore, e l'impresa di crescere, un'impresa non solo economica ma anche sociale, anche culturale. Cioè vogliamo aprire a Roma un grande dibattito, una finestra sul mondo, sui grandi temi dell'economia, e soprattutto, che è il vero auspicio, portarla al largo pubblico, nella tradizione dei grandi festival divulgativi che l'Auditorium in questi anni ha realizzato. E il fatto che siano presenti economisti, ma anche i ministri economici, appunto Padoan, Calenda, Del Rio, vuol dire che parlerete anche della manovra e del rischio che, per esempio, molte volte il presidente di Confindustria Boccia ha evidenziato, che questi risultati raggiunti, ancora non sufficienti ma comunque positivi, possano essere vanificati, diciamo, dalla campagna elettorale? Guardi, l'ambizione è di farne un grande forum divulgativo in cui si analizzano i temi, vi faccio dire, con una prospettiva più ampia, più di lungo termine, e quindi i ministri anche economici intervengono anche con la base della loro esperienza, della loro visione di questi anni, a dare un tracciato, diciamo, di lungo termine. Naturalmente sarà difficile non uscire anche dall'attualità quotidiana, e quindi la presenza di questi ospiti poi alla fine in qualche modo ci ricondurrà anche all'attualità, e quindi i temi in discussione, tra cui la manovra, tra cui naturalmente il ruolo dell'Italia in Europa anche rispetto alle raccomandazioni o alle indicazioni che ci arrivano da Bruxelles, e soprattutto guardiamo in prospettiva il mandato che avrà un nuovo potenziale futuro governo e che tipo di scenari economici ci troverà davanti. Su questo che cosa alla fine, Regina, vi attendete che possa emergere? Perché l'economia, chiaramente, come lei ricordava, ha assunto in questi 10-15 anni un'importanza sempre maggiore. Noi l'abbiamo testimoniato anche giorno per giorno come tema d'attualità, non solo come tema specifico di analisi. E quindi, se lei dovesse esprimere un auspicio su come vorrebbe che si concludessero questi due giorni? Ma io mi auguro che nello spirito della manifestazione, diciamo, sia coinvolga la cittadinanza in questo dibattito, cioè l'ambizione è uscire un po' fuori dalle stanze ovattate. Come dicevo prima, l'economia è entrata nella vita di ognuno di noi, ci sono parole che erano sconosciute e che oggi, come dire, comunemente come ne parliamo, come spread o come altri termini, diciamo, così comuni. L'ambizione è questa, cioè far partecipare tutti in un grande dibattito. Naturalmente c'è anche l'ambizione, questo lo dico da cittadino, che il festival diventi anche un po' una piattaforma costante nel tempo, perché questa la consideriamo un'edizione zero in vista delle future, e anche per il momento in cui si viene celebrato, cioè tendenzialmente durante novembre, che durante il pieno della manovra finanziaria, diventi anche un po' un appuntamento di riflessione sulle grandi prospettive che abbiamo davanti e che il Paese avrà davanti soprattutto nei prossimi anni. È tutto per questa puntata di Focus Economia. I ringraziamenti vanno a Valerio Rocchetti e Valeria Bernardi in regia, Mauro Del Corno in assistenza in redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Una buona serata da Simone Spezia. Radio 24. Libera la voglia di fare.